sto accorgendo che sei diversa. Ti guardo in viso e non sei la stessa. Sarà la luce che si diffonde, ti passa accanto e poi si nasconde. Tua fronte.